Io si prova a fare un confronto tra la narrazione così come c'è stata in Italia e la narrazione così come c'è stata in Francia. Devo essere sincera, considero molto migliore la narrazione che c'è stata in Italia rispetto a quella francese. Per una volta, nonostante io abbia tendenza a elogiare il paese in cui vivo e lavoro da tanto tempo, cioè la Francia, considero che nonostante tutto sia stata raccontata meglio. Da un lato la pandemia, la si stia raccontando meglio, ma si stia di fatto anche descrivendo meglio il comportamento degli italiani. Qui in Francia ieri e alcuni giorni fa si è assistito all'annuncio del Presidente della Repubblica Macron, che ha decretato il coprifuoco proprio a partire da sabato, il giorno di questo festival, e questo coprifuoco è stato giustificato nonostante le misure esemplari e il modo esemplare dei cittadini francesi di comportarsi. Ecco, questo è un tipico esempio di narrazione che non funziona, perché se ci si ritrova, come è vero, a più di 20.000 casi al giorno in Francia, probabilmente c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Allora, per quale motivo dico questo? Perché io considero giusto quello che è stato raccontato, anche che si dice in Italia, rispetto alla tendenza dei cittadini italiani di rispettare le regole, e per quanto riguarda poi il personale sanitario, anche da questo punto di vista io non me la sento di giudicar male una narrazione all'interno della quale è stato messo in valore anche tutto quello che loro hanno fatto, perché il personale medico si è veramente enormemente speso. Se devo essere sincera rispetto forse a una critica generale nelle narrazioni, direi che forse il problema di fronte al quale ci si è trovato è a narrazioni contraddittorie da parte dei cosiddetti specialisti, perché le narrazioni contraddittorie naturalmente generano confusione. Quindi non è tanto il modo in cui sono stati qualificati i cittadini italiani o i medici che erano sul campo, sul terreno, ma questa parola che tendeva a contraddirsi da parte degli esperti, che ha creato e continua ancora oggi a creare confusione. La responsabilità di questo errore di narrazione è dei media, della politica, dove si può trovare? È complicato, nel senso che ci sono naturalmente delle incertezze, e quando uno è esperto ha tendenza a nominare meno le incertezze e a proiettarsi forse un po' troppo nel futuro. Dopodiché forse è stato dato troppo spazio a virologi, epidemiologi, i quali naturalmente non avevano una sfera di cristallo all'interno della quale leggere. Poi, se vogliamo anche prendere in considerazione la parte della politica, allora lì c'è un'altra considerazione da fare, nel senso che anche lì si è assistito a narrazioni contraddittorie, ma perché diciamo non si è preso sul serio il pericolo, almeno da parte di alcuni. Se noi pensiamo a quello che è successo quest'estate con Salvini senza mascherina, i convegni dei negazionisti, ecco lì si è creata una grande confusione, probabilmente per cercare di andare a raccogliere consenso su qualcosa che era una vera emergenza, che è una vera emergenza nel nostro paese, ma in realtà in tutto il mondo. Tornando invece appunto come si parla dei cittadini e come ci si rivolge anche a loro, è possibile un atteggiamento più votato alla responsabilità che al paternalismo? Sicuramente, ed è quello che io da anni cerco di insegnare nei miei corsi di etica medica, spiegando si è usciti dal paternalismo medico, quindi sarebbe bene uscire anche dal paternalismo politico per responsabilizzare. Qual è però anche il problema di fronte al quale ci si è trovato? Talvolta di fronte a atteggiamenti non responsabili. Ancora una volta tiro fuori il caso francese. In Francia, in nome della responsabilità individuale, in realtà poi di fatto il messaggio che si è lasciato ascoltare, che si è comunicato, era quello che non c'era più pericolo e quindi chiunque poteva fare qualunque cosa. È così che è stato letto dai cittadini, tant'è vero che quando poi Macron ha annunciato il coprifuoco la reazione è stata quella di dire basta paternalismo, sarebbe stato meglio responsabilizzarci. Il problema naturalmente ancora una volta dipende da come viene raccontato il pericolo di fronte al quale ci troviamo. Dopodiché, giustissimo, dobbiamo essere noi a essere responsabili molto di più rispetto a questo atteggiamento forse paternalista, ma le regole, i divieti intervengono nel momento in cui si è confrontati a una disorganizzazione un po' generale.